Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'Unione Europea alza la voce contro le agenzie di rating ritenute troppo influenti. La prima conferenza stampa del neo direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, e gli effetti del superbollo sui depositi titoli per i risparmiatori italiani. Questi i temi al centro della nuova puntata di Economia in Europa. Iniziamo proprio dal Fondo Monetario Internazionale. La ripresa economica c'è, ma è irregolare e la crisi del debito non è finita e si spinge al di là dell'Europa. Christine Lagarde, alla sua prima conferenza stampa da direttore generale del fondo, ha presentato la propria strategia e contestualmente ha annunciato che domani, venerdì 8 luglio, il board discuterà del caso Grecia. Sentiamola. C'est un dossier qui est extrêmement important sur lequel nous devons liguer nos efforts. Si tratta di un dossier estremamente importante sul quale dobbiamo unire gli sforzi. Il messaggio che voglio far passare alla Grecia consiste in un appello all'opposizione politica affinché sostenga con spirito di unità nazionale il partito attualmente al potere. Ne va veramente del destino del paese, della sua sicurezza. Credo che occorra andare al di là delle piccole o grandi differenze politiche per mettersi al servizio del paese e superare il momento. Un'uscita del paese dalla zona euro è lo scenario peggiore, si deve evitare a tutti i costi e occorre farlo in maniera concertata e collettiva. Bisogna che tutti i creditori stiano al capezzale della Grecia, ma occorre anche che la Grecia assuma i propri impegni in tema di conti pubblici, in modo responsabile e attento, senza dimenticare i più svantaggiati. Non si tratta infatti di colpire tutti allo stesso modo. Credo che si debba tenere presente ogni situazione ed essere particolarmente attenti ai più deboli. Passiamo ora ad un tema che ha catalizzato la cronaca finanziaria degli ultimi giorni, il potere delle agenzie di rating che di recente si sono espresse a più riprese nei confronti di diversi stati dell'Unione Europea. Ultima in ordine di tempo è stata Moody's, che ha declassato a spazzatura il debito portoghese, scatenando il panico nelle borse di tutta Europa, che hanno registrato picchi negativi. Pronta la reazione dell'Unione Europea, che si è detta decisa ad accelerare la messa a punto delle nuove regole per le agenzie di valutazione. Hanno troppa influenza e potere? Questa è la domanda che si pongono in questi giorni diversi esponenti della politica e della finanza internazionale. Di recente era stata Standard & Poor's ad esprimersi proprio sull'Italia. Nonostante la manovra correttiva dei conti pubblici, secondo l'agenzia, restano infatti sostanziali rischi per il piano di riduzione del debito, principalmente a causa della debole crescita. Il 17 giugno era invece stata Moody's ad annunciare che il rating dell'Italia sarebbe stato messo sotto osservazione per una possibile riduzione. Giulio Sapelli, docente di storia economica all'Università Statale di Milano ed editorialista del Corriere della Sera. Quello a cui assistiamo oggi è una cosa a cui assistiamo da quando le agenzie di rating hanno cambiato la loro natura. Sono diventate da agenzie indipendenti a agenzie controllate dai grandi gnomi e dalle associazioni invisibili e segrete del grande capitale finanziario, che esistono, sono, diciamo, quello che io chiamo la dittatura mondiale dei manager corruzionisti, che controlla anche le agenzie di rating. Basta un semplice accordo internazionale, c'è l'OCSE che ha fatto un sacco di cose contro la corruzione, ha fatto delle linee guida per evitare il pagamento delle tangenti nelle transazioni internazionali, basta una piccola direttiva che le delegittimi totalmente e la gente starà più tranquilla, un po' di persone perderanno il posto di lavoro, sarà un evento fausto, perché non faranno più una cosa terribile e piena di peccati mortali e tutti saremo meglio. Com'è che l'ha chiamata, sapere, la dittatura mondiale dei manager? Stock optionist. Perché è questo che a cui noi assistiamo. Le agenzie di rating sono un segmento di questa dittatura. Voglio dire, l'ONU ci inonda di provvedimenti per i rifugiati, eccetera. Faccia qualcosa di utile una volta tanto, oltre a quelle già tante utili che fa spendendo un sacco di soldi, però faccia una cosa che non costa niente e emani una direttiva attraverso l'UNCTAD, la sua organizzazione che si occupa di relazioni economiche con l'OCSE, per cui queste istituzioni che non servono a nulla se non a favorire la speculazione finanziaria e a far godere i governi scomodi. Sì, ok, allora mi faccia difendere, ho difeso il governo Berlusconi e anche l'agenzia di rating oggi, diciamo, la paga me la sono guadagnata, ma chi deve dare però i giudizi ai governi? Perché insomma da qualche parte... Nessuno. La Grecia ce la si è beccata... Ma nessuno, abbia pazienza, Parisoni, abbia pazienza, ma i greci per 10 anni hanno falsificato i conti all'Europa. Lei può sostenere che c'era qualcuno che non è che non se n'era accorto? Beh, a noi i greci ci hanno raccontato che tutti lo sapevano in Grecia. Ma tutti lo sapevano a Bruxelles, abbia pazienza. Chi deve giudicare i governi? Gli elettori devono essere i giudici dei governi. Ma da quando è mondo che c'è qualche atti? Ma chi ha dato questo potere a queste persone di giudicare i governi dal punto di vista economico? È un nuovo panopticum, è il trionfo dell'illuminismo economicistico. Ma chi sono questi qui? Dio. Fortemente critico verso le agenzie di rating l'economista Jean-Paul Fitoussi, professore all'Istituto di Studi Politici a Parigi e docente di economia internazionale alla LUIS di Roma, che così si era espresso nei giorni scorsi. Sentiamo. Bisogna essere serio. L'agenzia di rating, dopo avere rovinati i piccoli risparmiatori con la bolla finanziaria, con la crisi finanziaria, adesso provano di rovinare i lavoratori, perché le agenzie di rating forzano i governi ad avere politiche fiscali più rigorose di quelle che si devono fare, e la conseguenza di queste politiche molto rigorose è che la disoccupazione aumenta, la precarietà aumenta, e dunque basta, perché se le agenzie di rating erano responsabili, allora un po' di danno che hanno fatto devono pagarlo, ma non è stato il caso fino ad oggi, e continuano a fare danni più grossi, perché se tutta l'Europa si mette al pane secco perché le agenzie di rating hanno la fantasia di credere che l'Europa è diventata insolvabile, che non è il caso da tutto, perché sappiamo che l'Europa è una situazione finanziaria molto migliore di quella degli Stati Uniti e del Giappone. Allora non possiamo accettare questo. È la ragione della mia rabbia. Bisogna cambiare questo funzionamento dei mercati finanziari, non lasciare un gruppo fatto dalle agenzie di rating avere un'influenza così forte senza nessuna responsabilità. Alle preoccupazioni in arrivo dai mercati internazionali se ne è aggiunta un'altra che riguarda esclusivamente i risparmiatori italiani. L'estratto conto sul dossier titoli rincara subito a 120 euro, ma dal 2013, se il valore del portafoglio sarà superiore a 50.000 euro, il bollo da pagare sarà pari a 380 euro. Questa una delle novità contenute nella manovra finanziaria appena varata dal governo. Quali saranno le conseguenze per i portafogli degli investitori? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Gastaldi, responsabile area Europa di Aletti Gestielle SGR. È estremamente punitiva per i piccoli risparmiatori, quelli che investono fino a 50.000 euro o per le piccole somme, perché essendo un'imposta fissa e chiaramente l'incidenza sul patrimonio va a diminuire man mano che aumenta il patrimonio. Certo. I grossi patrimoni, parliamo di 1 milione di euro, chiaramente l'incidenza dell'imposta di 380 euro sarà molto bassa percentualmente rispetto all'incidenza che ci sarà percentuale sui 10.000 euro o sui 1.000 euro. Cioè 6.000 euro prima l'imposta andava a essere intorno ai 3,42%, con la nuova tassazione andrebbe al 15% dal 2013. Per cui sicuramente è estremamente punitiva per la fascia più bassa di investimento. Quello che potrà succedere è che tendenzialmente ci potrebbe essere uno spostamento da un investimento in titoli di Stato a un investimento in conti correnti di depositi a breve termine, la cui tassazione dovrebbe passare dal 27 al 20%. Un'ulteriore ipotesi è che la tassazione, l'armonizzazione fiscale che viene portata al 20%, escluso i titoli di Stato che vengono mantenuti al 12,50%, possa essere mantenuta al 12,50% anche per i PAC. Questo potrebbe portare a un effetto forse perfino benefico, nel senso che se uno va a investire nei PAC, va a investire con un'ottica di medio e lungo termine e non più in un'ottica di breve e medio termine, come può essere l'operatività fra virgolette fai da te, quindi spostare un'operatività fai da te a un'operatività più professionale. Ma il superbollo comporterà nuove strategie di investimento? Il commento di Angelo Drusiani, responsabile gestioni di Banca Albertini SIS. Io credo che, come accade molto spesso, si arriverà a una trattativa probabilmente tra le banche in generale, a prescindere da chi parla in questo momento, dalle banche, tra le banche in generale e la clientela, perché ovviamente la forza contrattuale molto spesso varia a seconda delle somme depositate dai clienti presso le banche stesse. Certo che chi ha somme maggiori molto spesso ha un maggiore potere contrattuale, quindi può usufruire di, non dico sconti, comunque di addebiti meno gravosi di quanto invece succede per chi ha degli importi più bassi. Quindi in questo senso credo che una parte verrà sicuramente scaricata sul cliente per quanto riguarda l'aumento del bollo, e magari una parte invece se la colla la banca per evitare, fra virgolette, di perdere il cliente stesso. Mi faccio capire una cosa, ma questi 120 euro annui si pagano anche se io ho 5.000 euro in deposito titoli? Ahimè sì, perché questa è la cosa, ma a mio avviso sbagliata, stavo per dire un'altra parola. Perché, voglio dire, noi abbiamo fatto un calcolo, se ho 10.000 euro in titoli con un rendimento del 3% annuo, che è una cosa abbastanza normale, ho un prelievo di 180 euro, ossia il 60% del mio rendimento nominale, perché insomma è 300 euro. E arriviamo però al 180% di quello reale, perché se io levo anche l'inflazione, che è al 2%, un guadagno netto del 3%, un guadagno lordo del 3%, levando l'inflazione, è un guadagno dell'1%. Quindi io avrei 100 euro di guadagno netto, ma devo pagare allo Stato 180 euro. È una follia. Tenga conto anche che poi se acquista il titolo nell'arco dell'anno deve pagare anche le commissioni d'acquisto. Quindi anche questo è ad incidere sul risultato finale. Mentre se io avessi più soldi, cioè se io avessi invece che 10.000 euro in azioni, avessi 100.000 euro... Lì le cose cambiano, perché sempre con un rendimento del 3% a questo punto avrei 3.000 euro e scenderei a questo punto, e tutto il ragionamento, è vero che pagherei 380 euro, però abbiamo fatto i calcoli, pagherei il 70% del rendimento reale, non il 180%. Sì, in effetti laddove la quantità di titoli in deposito è superiore, molto, abbastanza alta, l'effetto negativo e molto più contenuto. Con Economia in Europa è tutto. Ci risentiamo la prossima settimana. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.